Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti, noi siamo tutti qui. Pietro La Corte in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione e ci sono, come sempre, i titoli del nostro sommario. Il raffreddore non ti dà tregua, la testa ti fa male. E se fosse sinusite? Scoprilo con noi. Un cardiologo per amico. Arriva un bastimento carico di salute. Parliamo di sinusite, questo è il suo momento almeno, questo insegna l'esperienza. Con i primi freddi, ecco che torniamo a confrontarci con una batteria di sintomi che, a torto o ragione, lo scopriremo strada facendo, ci fanno pensare alla sinusite. I più comuni, o meglio, i più frequentemente riferiti, una pressione dolorosa nella parte alta del viso che interessa quindi occhi, fronte e tempie, un raffreddore che tende a non guarire mai, mal di testa, sensazione di ovattamento, dolore alla pressione. Sono sintomi comuni anche a tanti altri disturbi. E questo un po' alimenta la confusione e anche gli errori. Oggi ai nostri esperti chiederemo di fornirci indicazioni per non confondere il raffreddore con la sinusite. Questo è un errore che molti di noi, molti pazienti fanno, ma vorremmo anche evitare di essere curati per una sinusite quando invece il problema è di tutt'altra natura, ad esempio una cefalea cronica. Ma oltre alla diagnosi differenziale vorremmo anche capire come è possibile curare la sinusite, evitare le ricadute e quindi tornare a stare bene. Oggi in studio con me è tornato a trovarvi il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Buongiorno, mi impapero sempre in otorinolaringoiatria. Dottor Franzetti, intanto do il nostro numero verde 800 24 0024 e anche il numero per inviarci messaggi 349 238 6666. La sinusite non è un raffreddore. Certo. Però ci faccia capire come non cadere nel tranello, dato che spesso chi soffre di sinusite è raffreddato. Certo, sicuramente il raffreddore, la congestione nasale è un inizio di una situazione che poi può complicarsi andando a causare una sinusite. Però le due cose sono le due forme patologiche completamente diverse. Perché il raffreddore dà sicuramente una congestione nasale, è di solito dovuto a un problema da raffreddamento o al massimo a una sovrainfezione di tipo virale e quindi richiede delle cure che sono delle cure sostanzialmente locali sul naso, per cui è inutile dare per esempio un antibiotico per un raffreddore. Mentre invece la sinusite è qualcosa che va a interessare i seni paranasali che sono proprio localizzati intorno al naso, sulla fronte, sotto gli occhi, ci sono i mascellari anche più posteriormente. Per cui le due cose sicuramente si condizionano, però sono due cose completamente diverse. I sintomi però sembrano uguali, naso tappato, naso che cola, oppure c'è qualche dettaglio che fa la differenza? No, ci sono dei dettagli che fanno la differenza. Ad esempio? Per esempio il tipo di dolore che insorge rispetto magari a solo uno stato di pesantezza a livello della fronte. Sì. Perché la sinusite dà dolore. Se non c'è un dolore acuto in determinati punti, che può essere anche esacerbato, cioè può essere reso più forte da delle pressioni su questi punti, ci sono due punti particolari per esempio che sono sotto l'occhio, sotto l'arcata sovraccigliare, dove c'è la sopracciglia. Sì, se noi per esempio mettiamo il pollice parte mediale proprio dell'arcata sopraccigliare, poi ci allontaniamo andando un pochettino più verso la metà, a un certo punto sentiamo come un gradinetto dell'osso. Quando noi sentiamo questo gradinetto, se schiacciamo lì e lì fa molto molto male, questo è già un segno di sinusite frontale. Oppure se noi lateralmente al naso, proprio prima dello zigomo, sentiamo una fossettina e schiacciamo dentro questa fossettina e schiacciamo forte, sentiamo un dolore acuto, è un segno di infiammazione dello stato del seno mascellare che c'è dietro lì. Questi sono due segni che in un raffreddore normale, per esempio, non abbiamo. Quindi infatti vedo anche Pietro La Corte e anch'io con lui tutti provavamo a toccarci sotto il sopracciglio, lì dove c'è questo piccolo scalino. Una pressione, se abbiamo dolore state iniziate a chiamare 824 0024 oppure proprio a lato del naso dove c'è un avvallamento, una fossetta. Prima dello zigomo. Proprio. Prima dello zigomo. Si schiaccia, se fa male. Se fa molto male, se sento un dolore acuto, quello è un segno infiammatorio proprio a carico del seno mascellare, per esempio. Per cui il dolore fatto in una certa zona di un certo tipo è già sintomo di un interessamento dei seni paranasali, quindi di una sinusite. Quindi noi adesso abbiamo già qualche elemento in più per capire se il raffreddore che non passa mai, questa testa pesante, un po' dolente, può essere la spia in qualche modo della sinusite o tutt'altra cosa. Certo. Diamo una definizione semplice di sinusite. In parte lei l'ha già data, ma volendo proprio, senza medichese, cercare di capire che cosa succede dentro il nostro naso, nei seni paranasali, quando abbiamo la sinusite, cosa possiamo dire? Cioè, noi immaginiamo, per capire, che i seni paranasali sono come delle specie di sacchetti, sì, che hanno un'uscita piccolissima, per cui all'interno di questo sacchetto c'è tutta una ventilazione, c'è tutto un mondo. Questa uscita condiziona molto quello che succede dentro questo sacchetto. Al di là del buco del sacchetto piccolo c'è il naso. Sì. Allora tutto si gioca in quello che succede intorno a questo buco. Per cui se c'è uno stato infiammatorio, una congestione, un'allergia, una problematica che chiude questo buco, dentro il sacchetto si scatena il finimondo. Sì, un terremoto. Allora la sinusite è uno stato di tipo infiammatorio o di tipo allergico che si complica all'interno del seno mascellare o frontale e poi va incontro a una sovrainfezione, per cui subentra o un batterio o un virus o un insieme di batteri, virus, miceti, cioè funghi, che iniziano a creare un'infezione. Questa infezione può dare un problema acuto o un problema che tende a cronicizzare. Per cui quando si andrà a studiare la sinusite anche dal punto di vista diagnostico bisognerà considerare quello che sta fuori dal buco del sacchettino, sì, l'ostio, cioè che è il punto cruciale dove si sviluppa la sinusite, e poi risolvere eventualmente la situazione che si è formata dentro il seno. E tutte queste cose riuscite a farle? Sì, direi di sì. Bene, con successo. Quindi possiamo direi dire nella maggior addio. Parte dei casi sì. Possiamo dire addio alla nostra sinusite? Possiamo dire addio alla nostra sinusite con impegno e con cura. Va bene, allora sappiamo cos'è, come riconoscerla. Naturalmente sarà poi il medico a fare la diagnosi, ma queste brevi indicazioni ci possono aiutare soprattutto ad evitare di fare mosse sbagliate, di fasciarci la testa, di prendere dei farmaci quando non servono e tutt'altro. A proposito, dottor Franzetti, dicevo fasciarci la testa, un vecchio rimedio della nonna suggerisce di tenere la testa al caldo. Mettiti il cappello di lana. Ci sono persone che con un attacco acuto di sinusite girano anche per casa, no? Con la testa fasciata oppure fai degli impacchi con delle pezzuole calde. Funziona il caldo per la sinusite o ce lo siamo raccontati per anni e alla fine la situazione non cambia, anzi rischia di peggiorare? Allora, senza fare o assumere atteggiamenti pittoreschi, sicuramente il fatto di tenere la regione dei seni paranasali, in modo particolare la regione frontale, al caldo sicuramente aiuta, perché la sinusite si sviluppa di più con il freddo, sicuramente in un periodo invernale. Questo però non solo per i fenomeni di vasocostrizione che provoca il freddo nelle zone dei seni paranasali, ma anche sempre perché il periodo invernale è associato a problemi di raffreddore. Certo. No? Anche per ragioni di tipo virale o di tipo ambientale di un certo tipo. È chiaro che l'utilizzo del cappellino, per esempio quando uno è esposto molto freddo, eccetera, aiuta a non farsi insorgere una sinusite. Quindi le nostre nonne sono promosse. Sicuramente un po' sì. 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Se soffrite di sinusite oppure pensate di soffrirlo, il dottor Franzetti ci aiuterà a venire a capo del nostro problema, a evitare il dolore e soprattutto evitare mosse che in qualche modo possono invece peggiorare la situazione. Una mela al giorno. Parliamo di infarto, un evento acuto che lascia il segno e che impone una svolta, un cambiamento di rotta, ma nel cambio si guadagna. Proviamo anche a considerare questo lato della medaglia. Ne parliamo col professor Francesco Fedele, presidente della Società Italiana di Cardiologia. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Professor Fedele, l'infarto è un evento grave, ma la lezione insegna e la qualità di vita può addirittura migliorare. Io vorrei mandare questo messaggio, se lei mi aiuta, a tutti coloro che, segnati da questa esperienza, esperienza conducono una vita mortificata, piena di paure e di divieti. No, non bisogna avere paura e nemmeno essere eccessivi nei divieti. Sicuramente può rappresentare una svolta nel cambiamento dello stile di vita, nel cercare anche di evitare gli stress eccessivi, di avere un pochino più di tempo per sé, per la propria attività fisica, per un'alimentazione sana. Ma il post-infarto, soprattutto quando non si è avuto un danno estremamente grave, permette a chi l'ha subito di svolgere una vita completamente normale. Quindi, professor Fedele, si può continuare a lavorare bene? Si può continuare a lavorare bene, anzi è bene continuare a lavorare, cercando di evitare però quelle situazioni stressanti e soprattutto cercando di non arrivare ai limiti delle proprie possibilità, lasciarsi sempre un margine senza arrivare all'estremo delle forze o delle proprie capacità fisiche e psichiche. Questo penso che sia il messaggio più importante. Per il resto poi l'attività fisica si può fare attività sessuale, l'attività fisica è bene naturalmente farla con passeggiate o con nuoto o con ciclette, cioè tutte attività che non comportano degli sforzi eccessivi, ma che soprattutto un'attività di tipo aerobico. Professor Fedele, per quanto invece riguarda l'alimentazione, adesso tra poco iniziano le feste, quindi si mangerà un pochino di più, si farà qualche brindisi in più, professore? Ma io direi che qualche eccezione si può fare, comunque ecco, nella normalità effettivamente chi ha avuto un infarto, a parte il trattamento farmacologico che deve avere, perché questo è importante seguirlo, naturalmente deve seguire una dieta che è quella poi la dieta mediterranea, che è quella che ci invidia tutto il mondo, cioè che è ricca di carboidrati e meno ricca invece in termini di grassi e anche il pesce è molto importante, la verdura e la frutta e i condimenti con olio di oliva più che con altri preparati. Professore, comunque non bisogna abbassare la guardia, perché i dati dicono che un post-infartuato su 4 sviluppa spesso in breve tempo una nuova insufficienza cardiaca che comporta spesso ricoveri ripetuti, quindi controllarsi sempre, questo è il secondo messaggio che vogliamo dare. Senz'altro, la guardia non va abbassata, ci devono essere controlli cardiologici frequenti e costanti e soprattutto l'aderenza, questo è importante, questa parola che è l'aderenza e non compliance alla terapia, cioè ci si deve rendere conto attivamente dell'importanza del prendere i farmaci che sono adesso estremamente potenti per evitare le ricadute, si chiama prevenzione secondaria, quindi sicuramente i farmaci beta bloccanti, i farmaci ACE inibitori, le statine, questo per stare molto attenti alla pressione arteriosa, controllare il diabete nei pazienti diabetici e poi appunto il cardiologo, lo specialista con controlli anche strumentali che sono rappresentati dall'ecocardiogramma, che è la cosa più semplice, elettrocardiogramma ed ecocardiogramma per valutare come si muove il cuore, ci possono essere anche esami un pochino più complessi, quale risonanza magnetica nucleare, e si può pensare almeno due volte all'anno di fare uno stress test al cicloergometro, cioè un elettrocardiogramma da sforzo al cicloergometro. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, la lascio al convegno e intanto le auguro buon Natale, anche se in anticipo. Grazie, grazie, auguri a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Pronto soccorso. Sinusite, se ne soffrite, ne avete sofferto, questo è il momento per raccontarci la vostra storia, chiedere aiuto ai nostri esperti. Qua in studio pronto a rispondere alle vostre domande il dottor Franzetti, parleremo però nel corso della trasmissione anche di medicina termale e di agopuntura. 800 24 0024, messaggi 349 238 6666. Dottor Franzetti, ci faccia capire bene da che cosa è provocata questa infiammazione dei seni paranasali. Abbiamo visto che già l'inverno possiamo metterlo, anche certo. I fattori ambientali, il fatto di doverci prendere, che ci raffreddiamo, arriva il raffreddore, quant'altro, però ci sono delle persone potenzialmente più a rischio di altri. Certo. Chi sono? Allora, sicuramente... Io già ho questo male qua, che adesso... adesso non so se anche Pietro si sente... No, Pietro tutto bene. Sicuramente sono tutte quelle persone che hanno una patologia nasale sottostante. Mm. Per esempio le persone allergiche, le persone che soffrono di poliposi nasali. Sì. Le persone che, per esempio, si trascurano molto magari nell'igiene nasale. Mm. Oppure nell'affrontare da subito con rimedi sicuramente più semplici forme di rinite che iniziano a subentrare. Perché che il naso respiri bene è fondamentale per evitare poi che ci sia proprio nei punti di sbocco di questi seni paranasali un ingombro o qualcosa che crei dei problemi all'interno. Posso leggerle qualche messaggio? Certo. Una batteria di SMS molto interessanti secondo me. È possibile che la sinusite sia scatenata da un mal di denti? Avevo un granuloma, mi è stato curato, ma da allora ho attacchi ricorrenti di sinusite, dolore e naso pieno, ci scrive Alba da Lodi. Sì, secondo me è molto più facile che una sinusite procuri un mal di denti, nel senso che il dolore del mal di denti sicuramente si irradia verso la zona mascellare. Sì. Però se noi parliamo di sinusite, vuol dire che c'è uno stato infiammatorio all'interno del seno che noi a volte, troppo spesso, attribuiamo al fatto che magari il dentista ha fatto un lavoro che non andava fatto bene. Mm. Mentre invece è l'inverso. Cioè, tante volte ci capita che i dentisti fanno degli ottimi lavori, ma siccome c'è un problema sinusitico sovrastante, sì, quindi di disventilazione del seno che non è ben ventilato, il fatto che il dentista magari sotto sul pavimento di questo seno mascellare faccia dei lavori provoca quella nota infiammatoria che poi però scatena una sinusite, ma che non è colpa del dentista, è colpa del fatto che il seno paranasale non era ventilato. Certo. Questo è il consiglio per cui noi spesso, lavorando insieme a tanti odontoiatri, andiamo con loro a verificare, prima di fare qualsiasi implantologia o qualsiasi lavoro sui denti dell'arcata superiore, una verifica di com'è la situazione dei seni paranasali. Per non svegliare il can che dorme. Per non svegliare il can che dorme. Anche Emanuele era preoccupato, ci diceva, non preoccupato, ci faceva, ci scriveva, esistono sinusite di origine dentaria, quindi abbiamo risposto anche a lui. Ma Sandro ci chiede, ad esempio, può una sinusite provocare una nevralgia del trigemino? Beh, assolutamente. Il dolore della sinusite è una stimolazione del nervo trigemino. Mm. Il fatto che uno abbia il dolore nel momento in cui c'è una sinusite acuta è una nevralgia del trigemino che è dovuta a questo problema. Mentre invece una nevralgia del trigemino che diventa cronica, che ha magari come punto di stimolo un fatto sinusitico, ma che poi si mantiene anche quando si risolve la sinusite, questo deve far pensare che va studiato meglio il problema dal punto di vista, diciamo così, neurologico, oppure del dolore maxillofacciale, perché c'è un problema del trigemino che una volta stimolato continua però ad aver dolore. Andiamo a Torino. Ci chiama Maurizio all'824-0024. Vediamo se Maurizio soffre di sinusite o sospetta di essere un paziente ipotetico. Maurizio. Buongiorno a tutti e grazie per l'occasione. Buongiorno. Io penso di soffrirne, penso addirittura che sia una sinusite cronica, perché si manifesta in determinate circostanze, tipo questo. In Piemonte siamo a bagnomaria da giorni ormai. Sì. Penso di avere i porcini dentro il naso ormai. Beh, però anche questo può avere i suoi vantaggi, no? Positivo, per carità. Mi ritrovo in tutto quello che ha detto il dottore. Desideravo solo un consiglio. Mi fa bene fare aerosol anche solo con acqua e sale, appunto per cercare di liberare questa pressione a livello di nasale. Un consiglio, come poter accedere non dico direttamente, ma in un modo più incisivo dentro questo tubicino che collega poi l'apparato respiratorio a queste sacche che abbiamo nella faccia, proprio per mollare questa pressione, perché quando ce l'ho è uno stiletto nello zigomo destro e sopra le arcate sopraccigliari. Quindi anche lei ha fatto come me, Pietro, la prova sul, sì, della pressione? Ma io no, guardi, io non ho bisogno di fare la prova, io in questo momento ho male, basta. Quindi ho Moment, o Tectol, insomma qualsiasi antidolorifico, però è un allora, cioè, dura un po' poi va via. Un SOS che ci lancia Maurizio, dottor Franzetti, si può togliere il male dalla testa di Maurizio? Beh, si può togliere il male nel momento acuto cercando di risolvere, come diceva lui, quella congestione che c'è a valle di questo male. Allora, prima di tutto bisogna, secondo me, dire una cosa. Bisogna fare quella che lui fa è una diagnosi giustissima, soggettiva, che un medico può avallare dal punto di vista clinico. Ci sono degli esami strumentali che potrebbero, diciamo, oggettivare questa situazione. Io consiglierei di non fare più la radiografia classica dei seni paranasali, perché, o del cranio, perché non serve assolutamente a nulla come indicazione clinica in più. L'esame ormai endoscopico con le fibre ottiche che noi riusciamo a fare è una cosa sicuramente sopportabile e non particolarmente invasiva, sì, o dolorosa, ma ci permette proprio di andare a vedere le zone di questi osti. Andando a stabilire com'è la situazione della zona di questi osti, ci si rende conto di quanto deve essere potente l'azione che noi dobbiamo fare per decongestionarli in momenti particolari. E quindi togliere il dolore. Quindi possiamo usare, di solito si usano o dei cortisonici o dei cortisonici dei vasocostrittori per brevi periodi, brevissimi periodi, a volte associati a degli antibiotici, e possono essere usati o per via locale, quindi con minori effetti anche per l'organismo, fino ad usarli anche per via sistemica, quindi assunti per bocca o per altra via, intramuscolo, cose del genere, a seconda della gravità della situazione che si trova in questi osti. Dopodiché è chiaro che c'è l'azione antalgica, analgesica, però la cosa principale è risolvere la sinusite o la rinite importante che c'è sotto. Quindi fare diagnosi, capire esattamente. Prima di fare i farmaci, fare sempre una diagnosi accurata. Andiamo da Corinna, che ci chiama da Udine. Corinna, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Corinna, noi siamo quasi per andare ai mercati finanziari. Se vuole fare la sua domanda rapidamente, il dottor Franzetti è pronto. Buongiorno, grazie per l'opportunità che mi avete dato. Io chiamo per mia figlia, insomma, ha una, è una cosa impressionante, ha il naso pieno in continuazione, starnutisce in continuazione. Quanti anni ha sua figlia, signora? 15. Il medico di famiglia ha detto di lasciare, insomma, di lasciare stare così, perché probabilmente è in fase di sviluppo ed è per questo che ci succede, insomma. Sì. Ma questo starnuto succede sempre in continuazione o solo quando è molto congesta nel naso? Ma anche quando non è congesta. Anche quando è congesta. Ma è per caso un'allergica sua figlia? Probabilmente alla polvere. Allora bisogna prima di tutto verificare che non ci sia un'allergia sottostante, eventualmente trattarla con antistaminici. Perché il problema della della ragazza di Corinna potrebbe essere appunto un'allergia. Certo. Che ti fa, quindi produce questa, questi starnuti, sì, uno dietro l'altro. Lo starnuto non è un sintomo da sinusite. Ecco, già la Corinna, questa è una buona notizia, già sua figlia la sinusite non dovrebbe averla. Può darsi, grazie, potrebbe essere allergica, ci sono dei test, delle prove, certo, allergologiche che potranno sicuramente chiarire la situazione. Essere e benessere. Sinusite, dottor Franzetti, abbiamo la diagnosi e ci siamo arrivati sottoponendoci a degli esami. Lei ha detto che la radiografia non serve più, è superata un po'. No, al massimo dal punto di vista radiologico ha un senso fare un TAC, che però è sempre in funzione di un'eventuale decisione chirurgica, non per fare solo una diagnosi, perché sennò sarebbe solo, certo, eccessivo. Però insomma l'importante è capire esattamente la natura di quel dolore. Esatto. Un dolore che abbiamo detto si manifesta nella zona alta del viso e talvolta già anche solo alla pressione diventa particolarmente, certo, acuto. Abbiamo Maurizio che ci chiama da Milano. Maurizio, buongiorno. No, sono Maurizio, grazie per avermi chiamato e complimenti per la trasmissione. Chiamavo perché io ho circa più di un mese e mezzo, vabbè, sono un gestore di distributore di benzina, lavoro anche le macchine, quindi sì, sono sempre in mezzo all'umido. E quindi è un mese a questa parte che ho questo problema di adesso ultimamente proprio respirazione, ho iniziato con un mal di gola, ho preso delle bustine, poi degli antinfiammatori locali, antibiotici, e non mi sta ancora passando, cioè sento come se l'aria mi passasse direttamente dal naso, la sento diretta, non so se mi spiego bene. Beh, sì, questa... secondo... io ho capito, non sì, so sì, se il dottor Franzetti, no, questa ha sensazione, capito. Questa sensazione che lui ha, che è una sensazione giustissima, vuol dire che il naso tutto sommato non è così congesto, quindi non è chiuso perché l'aria passa, c'è una grossa irritazione del rinofaringe e del faringe posteriormente, che risente dell'aria, che è soprattutto fredda e umida per il tipo di lavoro che fa. Quindi questo è un problema prettamente nasofaringeo, non è tanto un problema sinusitico. Bene, meglio, no? Certo. Tra le due. Un consiglio a Maurizio, allora, che cosa può fare? Allora, secondo me la cosa principale è cercare, prima di tutto, per quello che può, di proteggersi il più possibile rispetto all'aria che inala. Quindi, in qualche modo, cercare di proteggersi magari anche con gli espedienti della nonna, tanto certo. per dire. La seconda cosa è cercare di umidificare, decongestionare eventualmente il naso e l'aria che entra. E eventualmente fare delle terapie a livello della gola, magari con degli spray, degli antinfiammatori o cose del genere, e poi soprattutto andare a farsi vedere per fare una diagnosi corretta di quello che ha. Allora, a disposizione abbiamo visto che ci sono diversi rimedi farmacologici, i mucolitici, lei li ha citati, che rendono in pratica più fluide, no? Queste secrezioni, giusto? Queste possono aiutare in caso di sinusite acuta, ma in caso di rinite possono anche aumentare in maniera importante le secrezioni e non facilitare tutto fino in fondo. Quindi in questo caso va fatta una diagnosi un pochettino più approfondita. Allora, la diagnosi è essenziale. Noi adesso proviamo a cercare di venire a capo del nostro problema. Abbiamo il dottor Franzetti che ci sta spiegando come un otorino può aiutarci a risolvere il nostro problema. Noi cerchiamo di anche seguire altre strade. Ad esempio, avete mai pensato di affidarvi al potere curativo degli aghi? Chiamateci nel caso per raccontarci se avete avuto dei benefici, perché le ricerche dimostrano che i risultati ci sono. Ma lo chiediamo al professor Minelli, vice direttore del centro collaborante dell'OMS per la medicina tradizionale all'Università degli Studi di Milano, che è in linea con noi. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno a voi. Professore, allora, gli aghi funzionano per la sinusite? Le ricerche dicono di sì, ma per quale forma, acuta o cronica? Ma le ricerche direi che dicono che funziona per alcune componenti ovviamente della sinusite, sia nella forma acuta che nella forma cronica. Quindi funziona molto bene sulla componente dolorosa e sulla componente infiammatoria. Questi sono direi i risultati che abbiamo dalle indagini, dalle ricerche e anche dal conforto della pratica clinica quotidiana. Fabrizio ci chiama da Roma, vediamo se ha bisogno del professor Minelli oppure del dottor Franzetti, in che cosa si orienta la sua cura. Fabrizio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Immagino che lei abbia un problema di sinusite o almeno pensa di averlo. Come si cura, Fabrizio? Ah, di tutte e due, sia di sinusite che di trigemino. Ah, bene, allora. Ho provato il grandissimo dolore di questa nevralgia così dolorosa e per un determinato periodo ho preso dei farmaci. Sì? Che solitamente sono dei farmaci che si utilizzano anche per altri disturbi sempre del sistema nervoso. Come è andata? È andata che in realtà poi ho risolto con l'acupuntura. Bene. Togliendo completamente i farmaci, diminuendoli ovviamente in maniera graduale. E oggi continuo a fare acupuntura con una frequenza circa di una seduta al mese. Sì. E devo dire che è assolutamente non dolorosa e risolutiva. Grazie Fabrizio, perché con la sua storia sicuramente fa contento il professor Minelli. Professore. Ma sicuramente sì, direi che è un quadro anche abbastanza particolare, perché probabilmente potrebbe anche essere che la sinusite abbia costituito un focus algogeno che ha scatenato poi la reattività trigeminale, quindi in questo caso trattare con agopuntura la componente sinusitica è stato probabilmente molto utile anche per intervenire sulla nevralgia del trigemino. In sì, ogni caso direi sì. che le ricerche, anche da un punto di vista poi dei dati che abbiamo, sicuramente sulle forme croniche dove la componente infiammatoria e la componente dolorosa sono direi forse più rilevanti, non c'è la componente o minore la componente infettiva che spesso c'è nelle fasi acute, dimostrano che abbiamo risultati confortanti, insomma. Professor Minelli, però mi sembra che l'ago toglie il dolore, ma si possono applicare gli aghi anche nella fase di sinusite acuta, quando c'è il dolore acuto, o è meglio ricorrere agli aghi come un trattamento, se vogliamo, preventivo per evitare le ricadute? Ah, sicuramente l'aspetto preventivo è importante, ma anche nella componente acuta, dove evidentemente non potrà essere l'unico presidio, bisognerà lavorare a stretto contatto con l'otorino e utilizzare anche farmaci che usualmente vengono usati nella fase acuta. Direi che nella fase acuta, soprattutto sulla componente dolorosa, poi esiste il famoso ago triangolare dell'imperatore giallo, che è estremamente efficace comunque per togliere la congestione e il dolore, che si utilizza per pungere un punto che è localizzato in mezzo all'origine, diciamo, delle sopracciglia, e per fare una sorta di microsalasso, fare un piccolo sanguinamento che determina un'immediata decongestione delle mucose e quindi una risoluzione del dolore e della sintomatologia veramente interessante. Professor Minelli, quindi una buona alternativa quella degli aghi. Dottor Franzetti, lei l'ha mai suggerita ai suoi pazienti? Anche perché abbiamo detto più tante volte, proprio insieme anche al professor Minelli, che sono medicine, una non esclude l'altra. Anzi, spesso, come ci ricordava il professore, i due specialisti lavorano insieme per arrivare a una soluzione del problema. Lei l'ha mai suggerita? Assolutamente sì, molto spesso. Sono perfettamente d'accordo col professore. Io penso che la chiave di volta di tutto sia una corretta diagnosi. Perché, come sottolineava il professore, se noi siamo in una fase di sinusite acuta, laddove c'è anche una sovrainfezione, assolutamente ci deve essere una terapia concordata e che si sovrappone anche con una terapia di tipo medico, addirittura a volte di tipo chirurgico, se non si risolve. Laddove invece c'è l'anoxia soltanto algica piuttosto che infiammatoria, magari che diventa ricorrente, che diventa fastidiosa, direi che l'agopuntura è favolosa. Professor Minelli, grazie per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie, buona giornata a voi tutti. E auguri. E noi andiamo a Latina, ci chiama Luca. Buongiorno Luca. E buongiorno, grazie per avermi chiamato. E niente, volevo dire, insomma, ho già ascoltato il professore, insomma, ho sentito come diagnosi, insomma, c'è il fatto, insomma, di fare la radiografia, tutto sommato, insomma, cioè, non è veritiera, insomma, cioè, non è indicativa, insomma, cioè, come cosa. Però io ho fatto una radiografia, insomma, mi è stata diagnosticata, insomma, cioè, questa sinusite cronica, però, insomma, che si acuisce particolarmente, insomma, cioè, in certi periodi dell'anno. Tipo questo, qui. Certo. Sì, sì, sì. E niente, insomma, cioè, volevo sapere se c'era un rimedio, insomma, perché poi i miei sono palliativi, insomma, ecco, in qualche mucolitico, qualcosa del genere, per non è particolarmente fastidioso, insomma, cioè, quindi non so, mi ricordo, insomma, cioè, ad esempio, insomma, che c'era un mio compagno di liceo, insomma, che soffriva particolarmente di sinusite, insomma, cioè, fece un intervento, insomma, cioè, chirurgico, addirittura, insomma, cioè, che ne so, con delle garze, insomma, cioè, sui seni paranasali, eccetera. Insomma, allora, adesso Luca, non, mi si, sembra... non si fanno più quegli Luca interventi. Vuole togliersi il problema, dice, sì. Insomma, sono palliativi, no, io mi opero, mi butto. Dottor Franzetti. Prima di operarsi, come ho detto prima, ci vuole una diagnosi precisa. Una diagnosi precisa non si può fare con una radiografia standard. Bisogna fare un esame endoscopico dei seni paranasali, che praticamente è questo tubicino che è una voi specie di matitina con cui si va nel naso, collegato a delle telecamere che ci permettono proprio di vedere, di oggettivare la situazione nasale. Una volta si usavano anche degli interventi molto cruenti, molto pesanti, fatti anche per via esterna, per cui erano anche abbastanza importanti e fastidiosi per le persone che li subivano. Adesso, con l'avvento delle fibre ottiche e di altre tecnologie, questi interventi si fanno tutti in microchirurgia e danno con un minimo intervento dei risultati che sono ottimi. È chiaro che il risultato è in funzione di una corretta diagnosi. Se noi facciamo un intervento perfetto su una diagnosi che non è perfetta e corretta, rischiamo di avere l'insuccesso. Certo. Quindi secondo me il tempo da dedicare non è tanto nella scelta di che tipo di espediente usare, ma nel fare una diagnosi certa, perché tante volte dire uno una sinusite cronica è generico, è specifico. Bisogna capire che cosa non funziona nei seni paranasali. Essere e benessere. Ma eccoci, siamo di nuovo qui. Abbiamo Daniela con noi, che ci chiama da Vicenza. Buongiorno Daniela. Buongiorno, buongiorno, sono molto emozionata, devo dire, no, per tanti motivi. Prima perché parlo con voi, secondo perché forse ho finalmente trovato una soluzione al mio problema. Premetto che io soffro di emicrania e di cefalea da sempre. Sì. Credo tutti i tipi di emicrania e di cefalea li ho sempre vissuti, ma ultimamente, intendo dire gli ultimi 10 anni, soffro in particolare di un'emicrania, sì, stranissima, perché si localizza nei molari e premolari, destra o sinistra alternati, zigomo e poi arcata sopraccigliare. Sono stata anche in un centro per la cefalea, mi hanno detto che è una cefalea senza aura, benché io soffra in altri casi anche di, sì, aura, eccetera, e mi hanno dato un farmaco a base di almotriptani, sì, adesso non ricordo bene, che non ha su di me alcun effetto. E allora le è venuto il dubbio, sentendo parlare di sinusite, che la sua in realtà non sia una cefalea cronica, ma una forma di sinusite cronica. Sì. Allora, un dubbio legittimo, dottor Franzetti, cosa, sì, si può dire? Ma l'esame diagnostico, che permette di capire se c'è un quadro sinusitico in questo caso, che è abbastanza complesso, oltre all'endoscopia nasale fare una TAC. Sì. Nel senso che andrebbe fatta un'indagine TAC ad alta definizione, che va proprio a studiare queste zone a livello dei seni paranasali, e ad alta definizione ci permette di stabilire se c'è una sintomatologia che è riferibile a un quadro sinusitico. Perché ci sono delle, è possibile essere curati per anni per una cefalea cronica quando invece il problema reale è una sinusite, dottor Franzetti? Beh, è possibile se non è stata fatta un'indagine. Quindi mi raccomando, corretta, magari uno, oltre a non eliminare il dolore, prende molti farmaci. Certo. Quindi, Daniela, un esame per chiarire la situazione. Sì. Ne ha già fatti tanti, uno in più forse conviene e poi, farlo. E poi, secondo me, su queste forme algiche, come dicevamo prima, ci sono proprio delle forme anche alternative di terapia, vedi la l'agopuntura che dicevamo, ma anche altre che danno degli ottimi effetti, l'osteopatia o quant'altro. E alle terme? E alle terme invece serve non tanto per togliere il dolore quanto per intervenire sugli aspetti di tipo infiammatorio. E noi andiamo alle terme, in linea con noi abbiamo il dottor Bonsignori, specialista della scuola di specializzazione di idrologia medica e clinica termale, collaboratore all'Università degli Studi di Pisa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Allora, buongiorno. Lei ci fa da guida alle terme. Quali acque termali per curare la sinusite, per togliere, come diceva il dottor Franzetti, queste infiammazioni nei seni paranasali? Poi volevo fare anche una domanda, professore. Il dottor Franzetti si è preparato una domanda. Adesso bene, però lei ci dica quali sono le acque. Beh, le acque che principalmente vengono usate per quanto riguarda la cura della sinusite cronica, perché di patologia cronica si parla. Sì. Alle terme non si tratta la patologia acuta, è controindicato trattare la patologia acuta, quindi nelle forme croniche e per la prevenzione delle recidive, delle ricadute, le acque che principalmente si usano sono le acque sulfuree, quindi che contengono zolfo, idrogeno sulforato, e le acque salzo-bromoiotiche. Si possono utilizzare anche le acque bicarbonate, salze, ma le principali sono le sulfuree e le salzo-bromoiotiche. L'Italia ha degli stabilimenti termali di grande importanza e certo, che fanno queste cure con grande attenzione. Tra l'altro il reale beneficio delle cure termali è riconosciuto anche dal Sistema Sanitario Nazionale. Infatti le cure sono erogabili dal... Fino dal 1994, con la semplice richiesta del medico di famiglia, si possono fare delle cure alle terme per la sinusite cronica. Tra i vantaggi, dottor Bonsignore, la riduzione anche dei farmaci che vengono spesso utilizzati per il trattamento, vero? Certo, perché l'azione terapeutica è evidente, si può constatare dopo poche applicazioni, dopo alcuni cicli, ma l'azione prevenzione secondaria che si fa con i trattamenti termali proprio riduce sia in quantità le ricadute, ma anche le ricadute sono meno importanti, sono meno aggressive. Quindi ricordiamo, dottore, mi scusi, per ricordare ai nostri ascoltatori che mi stanno già scrivendo i messaggi, quali acque? Le acque sono le sulfure e le salse? Soprattutto le sulfure, se posso fare degli esempi di grandi centri, tipo sì, Saturnia, Trabiano, Porretta, dove ci sono acque sulfuree, mentre che sono indicate soprattutto per le forme produttive, per le forme produttivo-catarrali, anche sì, per le forme mucopurulente. Mentre le acque salso-bromoiotiche, esempio Salso Maggiore, Trapano, le acque di Ischia, le acque con cui si è fatta l'assoterapia, quindi sì, anche le acque dell'Isola d'Elba, delle Terme di San Giovanni, le acque di Sirmioni, che sono anche in parte sulfuree, sì, hanno un'azione più per le forme cosiddette secche, le forme che non hanno una produttività catarrale importante, hanno quindi un'azione antinfettiva, antiflogistica, anche sedativa, e poi basta pensare all'azione detergente, fluidificante che possono avere. Però la grande distinzione è questa: le acque sulfure per le forme di sinusite cronica con produttività produttive, con produttività di muco, e invece le acque salzobromoiodiche nelle forme che hanno più un aspetto di tipo secco, quindi con scarsa produttività di muco, dove hanno anche un'azione stimolante per produrre una secrezione che poi è quella che è utile anche a mantenere la una fisiologia adeguata dell'apparato. Grazie, dottor Bonsignori. Dottor Franzetti, è stato la domanda c'era o ha già risposto abbastanza? Va bene, va bene. Allora, dottor Bonsignori, promosso, grazie per le indicazioni che ci ha dato e le auguro buon Natale, anche buon magari Natale, alle terme, buon anno, no? A lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. E noi, a proposito di Natale, abbiamo parlato tanto di dolore, della sinusite, naso che cola, eccetera. Pensiamo invece a una cosa piacevole, alla letterina di Babbo Natale. E per tutta questa settimana noi la faremo insieme ad alcuni ospiti che ci verranno a trovare. La prima è Eliana Liotta, direttore di OK Salute, che è in linea con noi. Buongiorno direttore, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Senti direttore, noi cerchiamo insieme un regalo che faccia bene a noi, se vogliamo regalarlo a noi, o alle persone che ci stanno accanto. Tu devo dire che giochi semplice, perché oltre a essere direttore di un mensile di salute hai proprio, avete nel numero in edicola selezionato 100 regali salutari. Abbiamo giusto un minuto per suggerire qualcosa ai nostri ascoltatori. Caro Babbo Natale, illumina chi deve fare un regalo, per esempio uno strumento musicale, una chitarra che è bellissima da strimpellare, da imparare a suonare e che tra l'altro è utilissima al cervello perché migliora la coordinazione tra il movimento delle mani e il pensiero, e quindi eseguire le melodie aiuta anche nella pianificazione della quotidianità. È un regalo che non costa tanto, da 60 euro. E invece un altro regalo utilissimo è una mazza da golf. Non è soltanto alla moda praticare il golf, ma secondo una ricerca di un istituto prestigioso come il Karolinska Institute di Stoccolma, regala addirittura 5 anni di vita praticare il golf. Quindi, insomma, 5 anni di vita, caspita, speriamo senza sinusite. È un augurio di lunghissima vita, non è soltanto un augurio per divertirsi. Quindi chitarra o una mazza da golf. Allora, un saluto a Eliana Liotta, direttore di OK Salute, un saluto grande anche al dottor Franzetti che grazie, ci ha accompagnato. Se anche voi volete scrivere le vostre lettere di Natale, un vostro desiderio, una cosa che vorreste regalare, un vostro sogno, mandatecelo a esserebenessere@radio24.it. Proveremo a scrivere tutti insieme, noi della comunità di Essere Benessere, una lunghissima o magari proprio breve lettera di Natale che poi leggeremo insieme. Adesso è tutto, un saluto, a domani, buona giornata da Nicoletta Carbone.